Italia in controluce. Buongiorno a tutti e buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, che conduce e coordina questo programma della redazione di Radio 24, un programma che indaga tutti i giorni sulla società italiana. Il carcere femminile di Rebibbia a Roma è uno di quegli istituti di pena italiani che dispongono internamente di un nido carcerario. Nel nido sono recluse con i loro bimbi piccoli le detenute che devono scontare pene per le quali spesso non sono previste misure alternative al carcere, quindi pene gravi. Si tratta di recidive considerate pericolosamente sul piano sociale. Il reportage di Daniela Binello è stato girato proprio all'interno del carcere di Rebibbia di Roma. Siete tanto giovani che quando uscite, insomma, cercate di tenerlo a mente che è meglio non commettere reati. No! Chi sei? Documenti di regola. Mio marito è un po' di colore e allora con il lavoro difficile. E allora piano piano io 3 anni sono riuscita a stare, non ho fatto nessun reato. E allora adesso quando io che non so, ho avuto 3 volte da essere domiciliari e non sono mai evasa, sono stata a casa con i miei figli. Io adesso aspetto da 5 mesi che mi dà una risposta. E nessuna risposta. Deve sollecitare un po' l'avvocato allora, perché l'avvocato può andare dal giudice a muovere un po' le cose. Finché non c'è richiesto la speranza c'è, voglio dire. No, lo sai che mi ha detto l'avvocato, gli dico? Mi ha detto così, che il giudice se va, il mio avvocato ha detto che più male se va a parlare, perché lei si arrabbia più e allora... Ah, è peggio. È peggio di persona. Perché nervosisce. Si nervosisce da una cosa che ci pentiamo. E allora non sappiamo quello che dobbiamo fare, andare avanti. Ma noi speriamo che ci abbiamo un'altra possibilità per rimediarci. Per i nostri figli, magari noi perché siamo mamme. Siamo nel nido del carcere femminile di Rebibbia, un reparto che si chiama nido perché qui le detenute scontano la pena tenendo con sé anche in cella i loro figli piccoli, fino a quando i bambini non compiono l'età di 3 anni. Ma tutte le detenute del nido vorrebbero ottenere gli arresti domiciliari, come avete sentito nel dialogo fra una rom italiana e la direttrice del carcere, Lucia Zainaghi. Adesso con una poliziotta andiamo a visitare tutto il nido carcerario, dove nelle celle ci sono anche i bambini. Se vogliamo andare a vedere, sì, magari. Sì. Sono 4 stanze piccoline, sì, abbiamo una capienza di 17 persone. Queste sono le stanze un pochino più grandi. Purtroppo dobbiamo aggiungere anche qualche volta i letti perché aumentano al momento, insomma, non è che riusciamo. Incinte sono al reparto infermeria perché non è che possono stare qui se non hanno bambini. Al momento che poi vanno all'ospedale, partoriscono, poi vengono all'interno del nido. Si vengono curate, sono infermeria. Partoriscono in ospedale? Sì, con la scorta però. Sì, tutto controllato, insomma, ecco, non è che per il momento è così. E ci sono tensioni tra donne? No, la maggior parte sono tutte rom, per cui sì, si conoscono tra di loro, ma non è che ci sia allarmismo, nel senso cattiveria, no? Anche perché poi i bambini e tra di loro fanno conoscenze, per cui sì, si cerca di essere unite, almeno per i bambini. Crescono in un ambiente molto tranquillo. Questa è la cucina per i bimbi, ci abbiamo una cuoca sempre detenuta che fa solamente il vitto per i bambini dettato da un pediatra che abbiamo all'interno. Al momento che si chiama viene una volta a settimana, 2 a settimana per controllare la salute dei bambini. E la cuoca che si presta a questo riceve quindi un salario? Sì, un salario viene pagata per delle ore. Quindi può una cuoca effettiva, sì, una cuoca effettiva che poi viene riconosciuta in base a quanto tempo lavora, tutto quanto viene riconosciuta come cuoca per un domani per l'esterno. Abbiamo altre 2 stanze che sono simili a quelle che abbiamo visto. Qui abbiamo una stanza che è adibita, diciamo, un po' alla cucina, un po' a bagnetto per i bambini, che c'è una vasca. Ecco, andiamo incontro per le mamme, per la lavatrice, per cucinarsi quello che vogliono. E più abbiamo un angolo solamente per i bambini con il fasciatoio, con la doccia al momento. L'hanno anche in stanza il bagno, però la comodità del bagnetto dei bambini E qua insomma, perché stanziano la doccia, quelli piccolini, rimane un po' difficoltoso gestirli. Però non gestirli. È a misura di bambino i lavandini? No, no, i bambini non devono gestire, no, non devono gestire i lavandini, anche perché poi diventa un po' più pericoloso, perché sono anche vivaci, proprio, diciamo dai 2 anni e mezzo a 3 anni si gestiscono un pochino, perché sono spazi che risultano un pochino stretti per loro. Abbiamo l'ambulatorio dove c'è sempre il pediatra, c'è il medico di guardia che abbiamo noi di reparto, con gli infermieri 24 ore al giorno, polizia penitenziaria, noi dalla 24 ore al giorno noi stiamo qua. Sì, sì, sì, sì. Con il reparto femminile tutte donne, ma siamo tutte donne. Allora, noi praticamente sono, sì, non sono diciamo porte di, della classica, del classico carcere, insomma, ecco, una porta diciamo come una casalinga. E, sì, vengono chiuse, poi la sera alle 9 si spengono le luci, che i bambini praticamente, perché il giorno possono andare all'asilo esterno, per cui sono un po' stanchi tra attività, tra giochi. Poi la mattina, il giorno dopo alle 8 vengono riaperti, per cui neanche si accorgono, perché per loro è un gioco poi chiuderli. Tante volte mi aiutano, cioè per loro è uno spasso, non riescono a vedere la differenza, anche perché la maggior parte stanno con noi, se ci conoscono un pochino crescono con noi, per cui non riescono a vedere la differenza, che cosa c'è. Se uno gli parla di carcere, per loro questo non è carcere. Tante volte si fanno le domande, magari più grandine, ci vuoi andare? Dice no, no, io non carcere. Per cui è una situazione d'affetto. Vengono cresciuti da qualsiasi tipo di personale, polizia penitenziaria, con affetto con bambini, insomma, non c'è la differenza del detenuto, un pochino del distacco, no? È tutta un'altra cosa questo reparto. In realtà il nido carcerario è comunque una misura dura per quei casi in cui i giudici ritengano che la pericolosità sociale della detenuta non sia compatibile con misure alternative come la detenzione domiciliare o le case famiglia. Però i bambini che crescono dentro un carcere fino ai 3 anni per poi venire allontanati dalla propria madre, questa esperienza suona come una condanna sulla pelle dei più sfortunati. Fatima? No, c'ho 1 anno e 2 mesi. 1 anno e 2 mesi. Sei con la tua mamma? Sì. Sai dire qualcosa tu? Non dice quasi niente. Beh, non mi trovo proprio bene. Uno qua dentro si trova proprio chiuso. Non c'è la possibilità di andare da nessuna parte, chiuso, poi con una bambina che ha 1 anno e 2 mesi e già si sente che pure lei è chiusa. Allora peggio mi sento anch'io. Io ho 26 anni. E quanti figli ha? 3 figlie. Più grandi? Sì, una c'ha 6 anni e un'altra c'ha 3 anni. Speriamo che presto me ne vado, però stiamo aspettando. È normale, certo, uno quando si trova qua dentro, poi soprattutto con una bimba piccolina che già da 1 anno riesce a capire tutto quanto, allora uno già si sente ancora peggio, in difficoltà. Poi è una cosa brutta. Vuoi andare a casa? Fatima, vuoi andare a casa? Fatima, vuoi andare a casa? Sì? Il futuro per i figli piccoli delle detenute si chiama ICAM, cioè Istituto di Custodia Attenuata. In queste case di detenzione, ma senza sbarre, dal 2014 le madri detenute potranno allevare i loro figli piccoli fino all'età di 6 anni, contro i 3 anni di oggi. Al momento l'unico ICAM è a Milano, un secondo è quasi pronto a Venezia e per Roma esiste il progetto di costruirne uno nel parco di Aguzzano. Perché il giudice dice pure, no? Se tu c'hai bambini a cui devi badare, perché vai a commettere? Sì, questo è certo, ma io chiedo perdono, cosa devo dire? Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Questa puntata, come tutte le altre, la trovate sul podcast radio24.it. Siamo su Facebook, la pagina del gruppo, su Twitter, il blog, che è sempre aggiornato su alcune vicende italiane, vecchie e nuove, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani con la prima edizione alle 6:30.